Incontri di Gianfranco Fabi. They bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Con la voce e con le note di Bruce Springsteen con The River iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Valerio De Molli. Buonasera, dottor Fabi. Prima di presentare Valerio De Molli gli chiediamo perché Bruce Springsteen, perché il fiume, cosa le ricorda il fiume? Ma guardi, intanto Bruce Springsteen mi ricorda la mia gioventù, la mia adolescenza. È stato un personaggio incredibile che ha sempre trasmesso energia, passione. E soprattutto negli ultimi 2 anni con i suoi 2 concerti in Italia, a San Siro, fantastici, no? 2012-2013, dove sono andato portando i miei ragazzi, Martina adesso ha 19 anni, Mattia 18 e anche il piccolo di 13, è stato come un ritorno alle origini e questo passaggio generazionale dal padre e la madre, con mia moglie siamo insieme da allora, insomma, ai figli mi ha emozionato di nuovo e soprattutto ha emozionato lui, oltre 60 anni con un'energia pazzesca. Quindi una grande passione per la musica, una grande passione per ciò che trascina, per ciò che coinvolge, per ciò che fa capire che la vita vale la pena di essere vissuta. Assolutamente sì, è proprio una frase fantastica. Valerio De Molli è amministratore delegato di Ambrosetti European House, anzi European House Ambrosetti. Come nasce questo nome, European House Ambrosetti? Nasce, posso dirlo io, dallo studio Ambrosetti, fondato da Alfredo Ambrosetti, che era un mio concittadino, ma anche suo concittadino, un varesino. Assolutamente sì, siamo tutti e due di Varese, tutti e tre di Varese. Tutti e tre di Varese. Alfredo Ambrosetti nel 1965 ha fondato questo studio di consulenza, che è diventato uno dei più grandi d'Italia, uno dei più importanti d'Italia. Allora, The European House Ambrosetti, perché si chiama così adesso? Ma diciamo, il brand The European House è stato aggiunto alla parola Ambrosetti al posto di studio per tracciare alcuni significati importanti, o almeno per noi importanti. Prima, questo avveniva già circa 15 anni fa. Perché questo? Da una parte per defamiliarizzare un nome che comunque è il nome di una famiglia, appunto quello del fondatore della nostra attività, di cui appunto siamo molto orgogliosi, ma che guardando avanti e guardando al futuro non si rendeva conto che non poteva più essere il protagonista unico di questa attività, tanto che venne fatto un management buyout nel 2008 di cui io con altri partner siamo stati protagonisti. Quindi avete acquisito in pratica la società. Esattamente, questo 5 anni fa. E, pur rimanendo Alfredo Ambrosetti, pur rimanendo il presidente fondatore, emerito. Presidente emerito, esattamente, con grande orgoglio da parte di tutti. Quindi una prima visione condivisa 15 anni fa di istituzionalizzare anche a livello di marchio la nostra missione, la nostra realtà, e dall'altro lato di tracciare un segnale forte nella direzione del futuro. European House vuol significare valori europei, una casa europea, una casa che può affiliare, diciamo così, inglobare, aggregare altre realtà Ambrosetti-like in giro per l'Europa e poi potenzialmente nel mondo. Ma siete già presenti in altre realtà europee e anche in altre realtà mondiali? Sì, noi abbiamo siamo in totale 200 persone e abbiamo una quindicina in Cina, abbiamo aperto il giugno scorso a Singapore per l'Asian Market, tra l'altro con un altro varesino, è un caso questo, ma insomma capita. Ma sono bravi. Varesi. Sono bravi, esatto. Siamo negli Stati Uniti, anche con situazioni di reciprocità, a Londra da tanti altri, da tanti anni, in Spagna, eccetera. Ecco, ma per spiegare a chi ci ascolta, che cosa fate? Sostanzialmente il nostro business sviluppa 3 attività. Una prima che ci piace definire finestre strategiche, che sono rappresentate bene dai grandi eventi di Cernobbio a Villa d'Este, quindi incontri che vogliono tracciare dei fil rouge comune tra la comunità degli affari e la comunità della politica, non solo italiana peraltro, ma mondiale, internazionale. Il club, che è un club di amministratori delegati che noi riuniamo con finalità appunto da think tank indipendente, l'aggiornamento permanente, il leader del futuro per i giovani talenti, quindi tutto quello che riguarda finestre strategiche, questo è un terzo della nostra attività. Un 10% circa si sviluppa su quello che chiamiamo grandi eventi, che facciamo per terzi, non so, siamo partner da 15 anni di Coldiretti, altrettanto 15 anni con Confcommercio, con vari council e associazioni o anche singole grandi multinazionali che ci coinvolgono per realizzare le loro iniziative, diciamo, di evento e di comunicazione. Questo vale il 10% appunto circa dell'attività, e l'altra parte si sviluppa nell'area di consulenza, cui prima expertise è negli scenari e strategie, quindi temi di governance, temi di visione del futuro, temi di piani strategici, questa focalizzazione. Quindi non solo Villa d'Este all'inizio di settembre, un appuntamento ormai rituale da quanti anni? Cioè? Guardi, faremo 40 anni quest'anno. E io di fatto me ne occupo esattamente dal 1990, quindi farò 24 edizioni, molto più della metà della storia, due terzi della storia. Ecco, non solo Villa d'Este, però quindi fate anche qualcosa anche nel resto dell'anno. Sì, ecco. Esatto, quello che tiene impiegate le 200 persone nostre. Però questo resta un momento fondamentale, un momento importante. Quanti ospiti avete avuto in questi 40 anni, qualche migliaio? Sì, presuppongo di sì. In effetti è interessante la sua domanda, non li abbiamo mai contati dall'inizio alla fine. Quello che posso dire è che ogni anno abbiamo circa 15 governi del mondo rappresentati, una decina di ministri del governo italiano, 5-6 commissari europei in carica. Forse manca solo il Papa. Ma... In realtà è venuto Ratzinger, il cardinale Ratzinger, prima di diventare Papa, quindi arriviamo addirittura prima. Ecco, questo appuntamento è appunto un po' segna l'avvio, e poi il capodanno del business, l'avvio dopo l'estate, si riprende a Villa d'Este, si fa il punto sulla situazione internazionale. E lei ha introdotto i lavori dell'ultimo incontro, dell'ultimo meeting, con una introduzione appunto in cui si dice eppure c'è una via d'uscita. Sì. Quindi già a settembre si vedeva un po' di ripresa, un po' di fiducia, ma è un ottimismo, diciamo così, per contratto, oppure c'è qualcosa di reale, di concreto? È un ottimismo per convinzione, perché chi come me fa impresa in questo paese o è ottimista o è destinato a morire presto, perché i fattori di pessimismo si moltiplicano e la mamma dei pessimisti è sempre incinta in questo paese. Quindi in parte è nel DNA genetico di chi fa impresa, di chi investe, di chi assume, di chi cresce, di chi vuole crescere. E in altra parte perché siamo fortemente convinti che ci sia una via di uscita. E questa via di uscita si chiama imprenditorialità diffusa, e quindi il consiglio che darei a qualsiasi governo nazionale, regionale, a tutti i livelli, è quello di seminare la cultura dell'imprenditorialità, perché attraverso la capacità e la voglia di fare impresa, di investire, di dare opportunità di lavoro, che si può fare meglio. Ecco, questo è un po' il DNA degli italiani, dell'Italia, il fatto di essere non solo santi, poeti, navigatori, ma anche imprenditori. Cioè, però ci vuole anche uno scenario, bisogna che il seme gettato poi non venga sommerso dalla neve, dalla terra, dalle logiche burocratiche, dalle tasse, da tante cose. Quindi c'è anche il problema di uno scenario che deve favorire l'imprenditorialità. Assolutamente sì, di una visione del futuro. Montebourg, il ministro francese, ha appena presentato una visione industriale del paese e ha tracciato 52 industrie prevalenti, cioè hanno scelto di investire in alcune cose per disinvestire in altre. La Germania ha scelto di privilegiare il manufatturiero e, a differenza nostra, ad esempio, pone una cosiddetta exit tax. Noi siamo il paese delle tasse, ma sì, ce ne manca almeno una che sarebbe stato giusto avere, anche in relazione all'uscita dal paese di gruppi industriali importanti. Cioè, cosa dice la Germania? Se tu delocalizzi o sposti delle attività, paghi una tassa, una penale, una buona uscita. Una buona uscita, bravo. Una buona uscita che di fatto giustifica l'impoverimento. Poi tu, come imprenditore, sei stralibero di andare dove ti pare, evidentemente, sono tue scelte. Certo. Sappi che se lasci hai questo costo, questa zavorra da sostenere. Mi sembra francamente molto giusto. Quindi... Sì, può essere giusto se non è una tassa in più, se serve a magari a ridurre le altre tasse. Esatto, assolutamente sì. Questo è un po' il problema italiano, che si trovano tanti modi per tassare, però non si trovano dei modi per detassare, per fare dei passi indietro. Questo anche sulla semplificazione, si deve semplificare, però più che trovare nuove strutture che semplificano non si fa. Incontri. Ancora con la voce di Bruce Springsteen, riprendiamo l'incontro di questa sera con Valerio De Molli, amministratore delegato di The European House Ambrosetti. Si è detto nella prima parte che è un grande ammiratore di Bruce Springsteen, molto impegnato con lo studio Ambrosetti, con European House Ambrosetti, come si chiama adesso, e anche nella propria attività. Ecco, ovviamente, quanti ospiti avete in media? Ospiti nel senso di relatori a questo convegno di Villa d'Este? Guardi, abbiamo circa 50 relatori tra scienziati, economisti, membri di governo, capi di Stato, e circa 220 tra presidenti e amministratori delegati di realtà multinazionali e nazionali da varie parti del mondo. Sono un 35-40% circa di stranieri e il resto di italiani. Questo è oramai consolidato da un po' di tempo, perché abbiamo la fortunata situazione dove è molto di più la domanda di partecipazione di quanto non siano i posti fisici a sedere. Ecco, Villa d'Este è certamente una bella immagine, un bellissimo posto anche come richiamo turistico, però è un po' stretto. Mi è venuta la tentazione di spostarvi da qualche altra parte. Guardi, in realtà sì, in passato era venuta una riflessione, poi alla fine siamo convinti che tutto sommato ci sentiamo legati non solo storicamente, ma anche è un messaggio forte per il paese, perché spero di non essere interpretato come arrogante, ma insomma mi sembra che questa iniziativa sia diventata negli anni un punto di forza e come una stelletta che mettiamo tutti sulla giacca di un paese che funziona, di un paese efficace, di un paese che fa girare una riunione che molti ci invidiano. Abbiamo ricevuto proposte anche indecenti da paesi vicini, dalla Slovenia alla Svizzera, da Monte Carlo a tanti altri paesi. Ma non volete delocalizzare? Non vogliamo delocalizzare, esatto. No, non vogliamo delocalizzare. Siamo orgogliosi di avere creato questo negli anni, di mantenerlo ai massimi livelli possibili. Siamo orgogliosi che capi di Stato chiamino loro o facciano chiamare i loro staff per dire posso tornare. Quindi non c'è solo la coda di chi vuole partecipare, ma c'è anche la coda di chi vuole essere invitato a fare da relatore. Sì, devo dire di sì, è bravo il nostro team a far sentire tutti a casa, abbiamo una qualità dei contenuti pazzesca. Le dico solo che da tradizione il martedì successivo alla domenica nella quale viene chiuso i lavori dell'anno riparte la programmazione del nuovo anno, e già oggi noi abbiamo posizionato alcuni inviti per il settembre 2015, per il settembre 2016 e in alcuni casi addirittura oltre. E quindi è un ciclo di programmazione e di sviluppo di contenuti molto importante, e anche negli ultimi anni soprattutto è molto aumentata la parte di analisi, cioè la produzione di paper, di rapporti, di ricerche, di contenuti che portiamo, che solleviamo per il dibattito. Cioè non solo chiacchiere in pratica in questo luogo. Ecco, è interessante che non so se nelle precedenti edizioni, ma nell'ultima edizione c'è stato un televoto, avete fatto votare i vostri partecipanti per analizzare un po' quali che sono le loro priorità, ed è interessante che è uscito per esempio sulla riforma elettorale che il 48% pensa che sia la priorità delle priorità del paese. Quindi l'attenzione alla politica è sempre molto forte. Non c'è un po' troppa commistione tra politica ed economia? Beh, no, questo non credo, perché soprattutto nella realtà dei mercati di oggi il ruolo del regolatore in molte industrie, si pensi all'ICT, si pensi alla ricerca, chi fa ricerca e sviluppo, al farmaceutico, alle infrastrutture, cioè sono tantissimi settori che hanno una forte esigenza di regolamentazione e che quindi con la pubblica amministrazione o le pubbliche amministrazioni devono dialogare e interagire. E quindi no, non lo giudico eccessivo, l'importante è che sia ben gestito, certo. Ciascuno a casa sua con i giusti cappelli. Ecco, un'altra domanda a cui avete fatto esprimere un televoto è: quali sono le prime tre priorità per la competitività italiana? E i primi tre posti c'è ridurre la spesa pubblica, ridurre il carico fiscale, che sono una cosa che compensa l'altra, ma anche riformare la giustizia, con una quarta investire in istruzione e formazione. Quindi sono questi i temi che le imprese vedono come elementi di debolezza che possono diventare elementi di forza: ridurre il carico fiscale, ridurre la spesa pubblica. Sì, certamente, c'è voglia di liberare risorse per favorire i consumi anche interni. Ecco, e voi avete anche realizzato degli studi analizzando comparti della pubblica amministrazione, della burocrazia, in cui si dimostra che è possibile risparmiare ed essere più efficienti. Sì, la sanità è un buon punto, perché al di là delle esigenze di standardizzazione degli acquisti, ad esempio creando degli standard comuni sul minimo per ogni regione, tutte cose che peraltro stanno già certo. portando avanti, c'è in effetti una riflessione importante da fare, che a parità di altri fattori, semplicemente integrando in un modello aritmetico verso il futuro la dinamica complessiva di invecchiamento della società, di maggiore incidenza di alcune patologie che esprimono un costo pro capite più alto, come ad esempio il diabete che pesa per 3 volte sopra il costo medio, diciamo, standard in condizioni di salute. Ecco, integrando queste dinamiche si va a riparametrare un costo complessivo della sanità, ripeto, in assenza di altre decisioni, che è di 2,5 punti più alto in percentuale del PIL rispetto ad oggi. Siamo a 7,3 e si va ad oltre il 9%, 9,5%. Questo significa che devi fare oggi, devi prendere oggi delle decisioni per essere in una situazione più gestibile al 2030, al 2040, al 2050. Nessun governo, neanche il più capace, è in grado di pensare oltre i prossimi 6 mesi. E questo è un grosso problema che ci troviamo a dover affrontare, e in particolare in grandi settori come la sanità, dove gli investimenti, ad esempio, in nuovi farmaci, in nuovi sviluppi, in innovazione, ripagano a 10, 15, 20 anni. Certo, soprattutto sul fronte, per esempio, della prevenzione. La prevenzione sanitaria richiede varie degli investimenti immediati ed è difficile misurare poi quali potranno essere i benefici futuri, anche se tutti sanno che i benefici futuri ci saranno, ci sono, certo, sul fronte della prevenzione di malattie che richiedono invece, se poi si conclamano, delle cure costose. Sì, ma a volte anche senza guardare poi le malattie o le patologie finali, siamo diventati in 15 anni secondo peggior paese per incidenza di obesi infantili. Questo dato è molto concentrato nelle zone più povere e più arretrate del paese, nel mezzogiorno nello specifico e non solo. Quindi c'è molto da fare. Ecco, bisogna in fondo abituare le persone a essere imprenditrici di se stesse, per tornare al tema dell'imprenditorialità, che è stato un po', che è il filo conduttore anche degli incontri di Villa d'Este, che è stato il filo conduttore del suo intervento iniziale. Ecco, come è possibile, tornando anche a quanto dicevamo nella prima parte, sviluppare questa imprenditoria? Facendo venire voglia in loro di rischiare, di provarci, di avere coraggio, ed è anche un fatto culturale alla fine. Se noi ci basiamo su principi di merito e se noi celebriamo i casi di successo con la dovuta enfasi, e non i casi invece dei furbetti del quartierino che succhiano dalla mammella pubblica con il posto garantito, con la non disponibilità a rischiare, a fare, a crescere, è evidente che ci giochiamo una partita persa in partenza. Le faccio anche alcuni altri esempi. Ho conosciuto questo imprenditore finlandese che ha fondato a Helsinki un'azienda che si chiama Supercell, questo 3 anni fa, Oggi ne ha rivenduto il 51% a una società giapponese per 1,5 miliardi di euro in 3 anni. Cosa fa questo? Videogiochi. Si è inventato degli algoritmi, si è inventato dei giochi, si è inventato una struttura che di fatto ha creato un valore incredibile partendo dal nulla. Perché lì? Perché c'è una cultura più fertile che favorisce la tecnologia, le start-up. Ci sono giovani che non hanno paura di sbagliare, hanno coraggio e sviluppano attività. Se ci pensiamo, non esiste. Io ho 3 ragazzi, di cui 2 adolescenti e l'altro sta finendo le medie. Non c'è nessun programma scolastico che insegni, no, la cultura dell'intraprendenza. Dice, cosa deve fare un imprenditore? Non parlo della parte finanziaria, il business plan, ma quali sono le competenze su cui agire? Le competenze antropologiche, vogliamo dire, proprio personali, che uno dovrebbe trovare, potrebbe trovare. Non è venuto magari la tentazione di fare una villa d'este per i giovani? Guardi, in realtà noi da oramai circa 10 anni abbiamo voluto aprire le porte ai giovani a Cernobbio, e questo cluster lo chiamiamo Leader del Futuro, che è una delle piattaforme di servizio nostri di cui siamo più orgogliosi, che si riferisce ai talenti delle grandi organizzazioni, ma anche ai figli di imprenditori e manager e comunque coloro i quali hanno voglia di sfidarsi, di avere una leadership del futuro. Questa community ingaggia anche un'altra community di cui io sono mentor, che si chiama Kairos Society, che è un gruppo di giovani imprenditori americani, sono 700, il cui sottoinsieme dei primi 10 è, a loro giudizio, un gruppo di imprenditori di startup che ha la visione di 5 miliardi di dollari in 5 anni. E io sono orgogliosamente mentor di questa community, e questi, un avamposto di questi imprenditori, partecipa oramai da tanti anni al nostro evento a Villa d'Este. Quindi in Italia c'è anche nei giovani questa voglia di essere imprenditori, non solo perché si è figli di imprenditori, speriamo. No, anzi, quasi sempre capita il contrario, che se sei figlio di imprenditore tendi a stare sull'ovatta, e certo, non si può generalizzare ovviamente, no? E ci sono anche molti esempi contrari. Certo. Però in generale è la fame, la voglia di successo, la determinazione drastica di provarci che è la vera molla che motiva. Grazie mille, grazie a Valerio De Molli, amministratore delegato di European House Ambrosetti, di essere stato qui questa sera con noi. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata. Grazie a lei, dottor Fabio, e a tutti i radioascoltatori.